Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti in un'altra puntata delle Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano, Margherita, e oggi abbiamo un grande ospite, un altro grande ospite, sempre per la rassegna La Rete della nostra trasmissione. Abbiamo qui con noi Elisa Saraco del Presidio Universitario di Torino. Ciao a tutti! Ciao! Possiamo cominciare con le domande a questo punto. Volevo sapere, prima di tutto, qual era la vostra situazione in termini di attività criminale all'interno di Torino? Allora, innanzitutto abbiamo finito da poco il primo grado del processo Minotauro, il maxi processo contro l'Andrangheta Torino, che si è tenuto tra il 2012 e il 2013. Si è concluso con 38 condanne, di cui 23 per 416 bis. Quindi è ufficiale che l'Andrangheta Torino c'è, è radicata, non è più semplicemente collegata con il sud, con la Calabria, ma ormai abbiamo dei comuni che sono stati totalmente presi d'assalto dall'Andrangheta e sono comandati in parte anche da questi. Abbiamo molti comuni che sono collusi con la mafia. Durante il processo c'erano indagati alcuni sindaci, alcuni consiglieri regionali, il primo fra tutti Nevio Coral, che è stato condannato a 10 anni per concorso esterno mafioso. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza complessa. Dal processo è emerso non solo questa collusione tra sindaci e tra mafiosi, ma anche con una serie di percezioni della popolazione del fatto che la mafia a Torino c'è ed è normale che ci sia, cosa molto spaventante per noi. Detto ciò, abbiamo anche attivato noi come presidio universitario, insieme all'Università di Torino e alla Commissione Antimafia del Comune di Torino, una ricerca rivolta verso tutti i commercianti di Torino, con dei questionari che chiedevano appunto la percezione dell'Andrangheta. Diciamo che di tutti i risultati, quelli più allarmanti sono due. Il primo dice che l'8% dei commercianti conosce qualcuno che paga il pizzo, e sempre l'8% dei commercianti ha dichiarato che conosce qualcuno vittima di usura dell'Andrangheta o comunque delle associazioni mafiose. Diciamo quindi che la situazione è abbastanza complessa. L'altra cosa che volevamo chiederti è appunto a chi è dedicato il vostro presidio e poi che attività svolgete? Ok, allora il nostro presidio è dedicato a Roberto Antiochia. Roberto Antiochia è un ragazzo che nasce nel 62 e diventa un agente della scorta di polizia. Inizialmente sta nella squadra mobile di Palermo insieme a Beppe Montana. Dopo l'omicidio di Beppe Montana viene mandato in ferie a Roma, ma mentre lui è a Roma scopre, si rende conto del fatto che Nini Cassarà, il magistrato che in quel momento era molto impegnato, era lasciato da solo, totalmente da solo. Quindi Roberto Antiochia parte da Roma in modo totalmente volontario e va a Palermo per stare di fianco a Nini Cassarà. Stando vicino a Nini Cassarà, però, qualche giorno dopo, infatti nell'agosto dell'86, viene ammazzato insieme a Nini Cassarà sotto casa del magistrato davanti agli occhi della moglie. E quindi abbiamo deciso di dedicarlo a lui perché era un ragazzo della nostra età e anche lui volontario, come siamo noi che cerchiamo di fare antimafia sul territorio. Detto ciò, noi facciamo molti eventi, facciamo molte cene, per cena di formazione, in cui scegliamo dei temi e cerchiamo di formare, informare, sensibilizzare gli altri studenti universitari di Torino. E a volte capita anche di conoscere genitori di studenti e persone anche anziane che si fermano con noi. Quindi c'è un grande scambio generazionale. Inoltre facciamo appunto delle varie ricerche sui territori, questa sulla criminalità organizzata e sulla percezione da parte dei commercianti, una delle più grosse. Ci occupiamo però anche di altre cose, abbiamo fatto Biennale Democrazia, che è un grande progetto di Torino, in cui abbiamo parlato dello scambio di voto e delle possibilità del voto elettorale, parliamo di corsi di studi, cerchiamo di promuoverne alcuni che si occupino di antimafia, come quello del dottor Tranfaglia, e diciamo che facciamo comunque serate, incontri di formazione. L'ultimo è stato qualche giorno fa, abbiamo cercato di fare rete con altre associazioni universitarie e abbiamo fatto un incontro sulle ecomafie che ha attirato comunque moltissimi studenti. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Perfetto, adesso, ciao Elisa, adesso io ho una domanda per te. Allora, ciao, oggi, ciao. Oggi è il 21 marzo, del primo giorno di primavera, e come simbolo di speranza e di rinnovamento sappiamo che Libra l'ha scelto come giornata della memoria e dell'impegno. E oltre appunto alla manifestazione del 22 che si terrà domani a Latina, dimmi un po' cosa avete avuto in programma voi come presidio universitario per oggi. Allora, noi oggi siamo stati all'Università di Torino, al nuovo polo universitario, al campus. Abbiamo riempito tutto il cortile con dei palloncini rossi in modo simbolico. Avevamo come accompagnamento musicale un quartetto di musicisti del conservatorio. Abbiamo letto i nomi, come al solito facciamo tutti gli anni. Abbiamo fatto leggere i nomi anche ad alcuni studenti universitari, ad alcuni professori, che poi hanno anche deciso di intervenire, di parlare della mafia e dell'antimafia. Diciamo che è stato un bel momento coinvolgente, c'erano veramente tanti ragazzi, e adesso aspettiamo di scendere domani a Latina e di marciare tutti insieme. Bellissimo, bene, allora ci vedremo lì sicuramente. Beh, avrei un'altra domanda a proposito del rimanere all'interno di Latina e andare a Latina. Noi, come abbiamo già detto nell'altra puntata, rimarremo anche qualche giorno in più. Perché secondo te è importante rimanere qualche giorno in più e fare rete tra di noi ragazzi? Allora, è importante fare rete perché, come tutti sanno, i legami possono essere forti tramite i computer, tramite le telefonate, ma i legami più forti sono quelli vissuti in prima persona, in modo personale, facendo scambi di pensieri, parole, sguardi e condivisione di interessi e di tematiche. Diciamo che noi di Unilibera e soprattutto i giovani di Libera ci credono molto. È importante stare insieme, crescere insieme e fare dei momenti di condivisione come questi insieme, che non siano semplicemente il puro divertimento, ma che siano anche affrontare delle tematiche più complesse, perché insieme è più facile. E sapere che c'è qualcuno dall'altra parte, in qualche altra città d'Italia, che è pronto a combattere le stesse battaglie con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta, non può che fare bene. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Ha detto Stefano che è una bellissima canzone da proporci per chiudere, quindi te la lascio lanciare. Va bene, grazie mille, un saluto a tutti. Lanciamo Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Dai, ci vediamo tra poco. Ciao. A tra poco, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, chi sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, non si è nella muta, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta bevendo, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere, na na na na na. Eccoci alla nostra amata rubrica Buffier, che la inauguriamo con questa giornata di primavera, oggi. È primavera. È primavera, abbiamo ripetuto e ridetto, e noi abbiamo già detto che domani, 22 marzo, saremo a Latina e partiamo stanotte alle 3 di notte, e quindi non saremo a Bologna. Però Bologna in questi due giorni, in questo weekend, avrà moltissime iniziative da parte del FAI, perché organizza la giornata di primavera della cultura e organizzerà un sacco di attività culturali in giro per la città, perché infatti un sacco di volte girando per Bologna abbiamo visto, non so, cortili, palazzi bellissimi che sono di privati e quindi non sono accessibili al pubblico, ma in questa giornata, il 22 e 23 marzo, sarà possibile visitarli grazie al FAI. Dimmi Stefano, dimmi chi è il FAI. Beh, ti rilancio la battuta, dato che tu guidavi che vecchietti con il cappellino verde. Sì, io infatti ero una volontaria, una cicerona, così si chiamano, a Napoli, e infatti i volontari del FAI sono quasi tutti ragazzi liceali, quindi se voi decidete di fare una di queste visite vi troverete ragazzi di licei artistici, di licei classici, che vi porteranno in giro a visitare queste meraviglie. E diciamo che il FAI è fatto proprio l'articolo 9 della Costituzione italiana, che recita così: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ecco, ed è una cosa che dovremmo fare tutti. E dimmi tu Stefano, che cosa si può fare attivamente a Bologna grazie al FAI in queste due giornate? Grazie al FAI, che non abbiamo detto che è il Fondo Ambiente Italiano, ci sono luoghi aperti in tutto il centro storico di Bologna, tra cui il Museo Archeologico, Civico Archeologico, che si trova in via d'Arte Ginnasio 2, il Palazzo Dal Monte, che si trova in via Galliera, il Palazzo Gaudenzi, che è sempre in via Galliera, e il Palazzo D'Accursio di Piazza Maggiore, che è molto bello, consiglio, e la Sala Borsa, i sotterranei della Sala Borsa, che sono molto particolari e meritano anche quelli una bella visione, perché ci sono tutti i reperti greco-romani, e poi tanti altri posti che potete trovare sul sito. Continuiamo e finiamo questa puntata con degli annunci. Con un sacco di appuntamenti, perché è iniziata la bella stagione, è iniziato tutte le attività che noi teniamo in serbo per questo periodo dell'anno, e infatti abbiamo, a partire dalla prossima settimana, il nostro terzo e ultimo aperitivo per Aspettando il Liberaduno. Venite, accorrete. Il 27 marzo in via del Borgo San Pietro al Barattolo. Direi di sì. Prima si chiamava Osteria Contavaldi, adesso poi è diventato di nuovo Barattolo. Adesso mille non cose. Sappiamo. Però è in via del Borgo San Pietro. Poi c'è il nostro Liberaduno 2.0. Dimmi, Stefano. Allora, il Liberaduno durerà dal 4 al 5 aprile, e la prima data, il 4 aprile, ci saranno come ospiti nel pomeriggio, a partire dalle 6, se non ricordo male, i ragazzi dell'Aquila, perché sono comunque sia ragazzi degli studenti dell'Aquila, che parleranno della situazione dell'Aquila 5 anni dopo il terremoto. Non dimentichiamo che il nostro presidio universitario è dedicato ai ragazzi della Casa dello Studente dell'Aquila, quindi... E poi una super festa la sera con grandi concerti. E il secondo giorno, sempre a partire dal pomeriggio, ci sarà Pino Maniaci, direttore di Teleiato, e Musica contro le mafie, la etichetta sponsorizzata da Libera, che si occupa per appunto di attivarsi dal punto di vista sociale contro le mafie. E ci saranno la sera i De Niro, che ci dicono siano arrivati secondi alla sezione giovani di Sanremo. Beh, direi che per questa puntata è tutto. Margherita, puoi lanciare la canzone che hai scelto? Ho scelto questa canzone che Margherita è... proudly presents Oh la la la dei Goldfra. Ciao. Love.